guardo, madonna mia, io che faccio, madonna mia, divento pazzo, madonna mia, io m'ammazzo, madonna mia, mi manca il mio respiro, madonna mia, dopo il tuo passaggio, che tragedia, il tuo profumo, poi non c'è più spazio per nessuno in questo posto, il tuo profumo in questo posto per nessuno, poi non c'è più spazio in questo posto perché tu balli, balli. Un tuo movimento, quanto sei bella, poi ne fai un altro, mio corpo brucia, brucia, mi sfiori tutto, sì, proprio tutto, pazzesco i tuoi fianchi, ma se guardi i tuoi occhi, non c'è più scampo, e con questo ritmo, indiavolato, senti che musica, dammi la scossa della mia vita, poi non si sa che succederà in questa discoteca, ma una cosa è certa, è che ci sei tu, ci sei tu. Un tuo sguardo, madonna mia, io che faccio, madonna mia, divento pazzo, madonna mia, io m'ammazzo, madonna mia, mi manca il mio respiro, madonna mia, dopo il tuo passaggio, che tragedia, il tuo profumo, poi non c'è più spazio per nessuno in questo posto, il tuo profumo in questo posto per nessuno, poi non c'è più spazio in questo posto perché tu balli, balli. Un tuo passo mi spaventa, ma che hai fatto con la mia schiena? Poi ti giri e ti metti davanti a me per continuare a muoverti, che brividi mi fai sentire, oh Cherim, non andare lì, lo sai amo che sei sexy. Un tuo sguardo, madonna mia, io che faccio, madonna mia, divento pazzo, madonna mia, io m'ammazzo, madonna mia, mi manca il mio respiro, madonna mia, dopo il tuo passaggio, che tragedia, il tuo profumo, poi non c'è più spazio per nessuno in questo posto, il tuo profumo in questo posto per nessuno, poi non c'è più spazio in questo posto perché tu balli, balli.